Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Qualche settimana fa con l'ex campione di pallavolo Andrea Zorzi, mitico Zorro, abbiamo visto come gli attuali indici di sportività, anzi l'attuale visto che in Italia ce n'è solo uno, trascurino praticamente la galassia degli sportivi che non aderiscono a federazioni sportive, che non frequentano le palestre. Eppure sappiamo benissimo che sono moltissimi gli italiani che vanno a farsi un paio di volte alla settimana una corsetta al parco oppure la partita a calcetto. Questa disattenzione, diciamo così, degli esperti di statistiche, che ora per la verità si sta cercando di colmare, riflette il generale disinteresse verso un insieme di attività sportive o più semplicemente di attività motorie che non sono importanti solo dal punto di vista della salute pubblica, ma rappresentano proprio un'opportunità più unica che rara oggi di restituire senso a tutta una serie di spazi pubblici presenti praticamente in tutte le città, spazi che oggi sono abbandonati, salvo poi naturalmente lamentarsi perché qualcun altro questi spazi alla fine li utilizza. Ebbene, c'è un progetto, Tracce di Sport, che è andato a esplorare questa dimensione dello sport che potremmo definire così informale, che ha evidenziato tanti casi nei quali lo sport ha valorizzato, in qualche caso addirittura riqualificato, luoghi altrimenti abbandonati a se stessi. Questo progetto è nato da una collaborazione, quella tra Andrea Zorzi e Elena Donaggio, ricercatrice dell'IRS, l'Istituto per la Ricerca Sociale, istituto che ha sede a Milano, e questa volta abbiamo Elena Donaggio. Ciao Elena. Buonasera Maurizio. Allora, io direi di partire subito, raccontaci un po' di questi casi così capiamo immediatamente di che cosa stiamo parlando. Per esempio a Reggio Calabria, diciamo, si è verificato uno di questi incontri fortunati. Sì, come accennavi tu prima, il viaggio Tracce di Sport che abbiamo fatto insieme ad Andrea, questa ricerca che si occupa di guardare appunto al mondo dello sport da una prospettiva duplice di ricerca, più da un punto di ricerca vista sociale, direi. Di ricerca sociale, esattamente, e dal punto di vista più sportivo, ci ha permesso anche di individuare una serie di casi che provano a fare esattamente questo tipo di ragionamento e a intervenire nel tessuto urbano, nelle nostre città. Invece che col fucile, con qualcosa di un po' diverso, no? Esatto. Ecco. Il caso di Reggio Calabria è un caso, secondo noi, molto interessante, che è stato promosso dal CSI locale, il Centro Sportivo Italiano, dopo lo stimolo anche portato dal progetto che abbiamo portato in giro per l'Italia e che ha previsto di utilizzare due parchi, due aree della città in cui erano successe durante l'estate alcuni avvenimenti abbastanza spiacevoli e si erano verificate delle aggressioni a dei senza tetto. L'idea era quella, ovviamente, in un primo momento di intervenire in una logica più di sicurezza, repressiva o di sicurezza, certo. Esattamente, con limitazioni del di accesso, orari, chiusure, tutto vietato come spesso capita nei nostri parchi. Esattamente, e il CSI ha invece promosso di animare questi due spazi grazie ad alcune attività sportive. L'iniziativa ha avuto un grandissimo successo e adesso si sta provando a capire in che modo renderla più stabile e duratura. Ecco, che tipo di attività ci si fanno adesso in questi due parchi? Ma guarda, per il momento loro hanno organizzato e continuano ad organizzare dei momenti, soprattutto nel fine settimana, in cui far fare giochi rivolgendosi a un pubblico di età diversa. Qui ci sono alcune gare per gli adulti, alcuni momenti più ludici e di gioco per i bambini. Insomma, c'è un centro sportivo a questo punto che evidentemente ha fatto sapere alla cittadinanza che c'è la possibilità in questi parchi, due volte alla settimana, quello che è, di incontrarsi e di fare questo tipo di attività. Tra l'altro mi viene da pensare che un trainer, oggi come oggi, può anche mettere su un piccolo business in questo modo, no? Cioè anche un'opportunità di lavoro in un certo senso. Sì, guarda, noi su questo ci stiamo pensando e abbiamo esattamente individuato la stessa questione. Ci sarebbe la possibilità anche per chi in questo momento gestisce palestre, eccetera, e di poter immaginare i parchi delle nostre città come anche una palestra all'aperto. Nelle palestre a cielo aperto. E che quindi, come dire, molte delle cose che facciamo oggi al chiuso possano essere portate in un luogo decisamente più piacevole. Sospetto anche che costerebbe meno di un abbonamento in palestra. Credo. Ma raccontiamo qualche altro caso. Andiamo a New York. Sì. In centro a New York c'era, diciamo, fino alla fine degli anni Ottanta, un'area molto degradata ma molto centrale, e questo ovviamente ha rappresentato anche uno dei vantaggi di questa operazione. Un'associazione no profit ha preso in gestione lo spazio, l'ha completamente riqualificato, ne ha fatto uno dei parchi oggi più conosciuti e più apprezzati di New York, si chiama Bryant Park. Questo parco vive di tutta una serie di attività anche di natura diversa, dall'attività sportiva, proiezione di film, musica, concerti, eccetera, ma lo sport occupa uno spazio molto importante. importante ed è possibile, vengono offerti gratuitamente, solo dietro iscrizione, corsi di moltissime cose, ma alcune delle quali anche, diciamo così, abbastanza ricercate, perché si fanno corsi di scherma, di tai chi, di yoga, eccetera, molto molto frequentati, molto apprezzati dagli abitanti di New York, e appunto il tutto gratuitamente, e anche in questo caso, come dire, avendo raggiunto il doppio obiettivo, no? Da una parte, certo, di aver restituito alla città un'area abbandonata e degradata, e dall'altra parte di offrire oggi un programma, di offrire un servizio, un servizio molto apprezzato probabilmente. A Parigi in 12 parchi si fanno moltissime attività sportive, ma sappiamo le tradizioni della Francia da questo punto di vista quali sono. Mi ha colpito un altro esperimento, diciamo un'altra modalità che invece hanno messo a punto a Barcellona, se non sbaglio, dove c'è questo elemento di creatività in più, secondo me. Sì, che sono come delle incursioni in questo caso, in luoghi un po' lasciati a se stessi. Esatto, sono incursioni in spazi urbani abbandonati o in attesa di nuova destinazione, in cui attraverso l'attività di un collettivo vengono organizzate dei tornei di calcio molto interessanti, molto liberi, e che permettono di far rivivere questi spazi nei tempi, come dire, morti appunto, tra una destinazione e un'altra. E qui la differenza è che una volta si va in un posto, una volta si va in un altro. È quasi un movimento questo, più che, no, sì, mi viene da pensare. Esatto, che lavora molto sull'idea di temporaneo. Per cui è un po' l'idea dell'incursione, un giorno siamo qui, un giorno siamo là, e mostriamo come questa attività permette di accendere una luce in un punto della città spento e abbandonato fino al giorno prima. Comune di Milano, qualcosa sembra che stia succedendo anche qui, dico qui perché io mi trovo a Milano. Esatto, questa è una cosa veramente molto nuova su cui stiamo lavorando in questi giorni insieme all'assessorato allo sport del Comune di Milano, sperimentazione che speriamo di riuscire a fare entro la fine di giugno in due piazze, Piazza Leonardo e Parco Ravizza, e che poi dal mese di settembre in avanti possa diventare, almeno finché il tempo ce lo concede, un programma. Un appuntamento fisso. Di che attività stiamo parlando? 10 secondi. Anche qui è un programma di attività sportiva rivolto a tutto l'arco della settimana, rivolto a pubblici diversi, che faccia vivere queste due piazze grazie allo sport per tutto il tempo necessario. Grazie Elena Donaggio. Grazie Maurizio, arrivederci. Ci fermiamo qui, ma torneremo su questi temi. Per intanto buona serata.